Sentiva il mio amore, amore fra i cuori. cosa verrà a sé. Un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso diventi tutta. Se Aida tornarmi da un recinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Questa quella per me pari solo a quand'altri intorno, intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non c'è, la meglio dura che ad altra beltà. La costoro appellenza è quel dono di che il fato ne infiora la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse una. Domando sarà un'altra, forse un'altra, domando sarà. La costanza tiranna del cuore, le festiamo quel morbo crudele. So chi muore si servi fedele, non morno se non è libertà. Due mariti il geloso amore, degli amanti le smanie, e da rino anco d'arco, sento uno sfido, senti pugge, una qualche beltà, sì.

Oh, no wonder. m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me. Thank you.

Oh! santi. L'arte nel suo mistero.